la signorina Nimmot Leary udì battere alla porta e andò ad aprire. Era il notaio, dottor Alberto Fassi, vecchio amico. Lei notò che il suo soprabito era tutto bagnato, segno che fuori pioveva. Disse: «Oh, che piacere, caro dottor Fassi, si accomodi, si accomodi». Lui, sorridendo, entrò e le tese la mano. La signorina Motleri sentì dei colpi alla porta, ebbe un soprassalto e andò ad aprire. Era il vecchio amico, dottor Fassi, notaio, che indossava un soprabito nero, ancora gocciolante di pioggia. Lei, sorridendo, gli disse: «Oh, che piacere, caro dottor Fassi, si accomodi, si accomodi». Il Fassi entrò con passi pesanti e le tese la mano. La signorina Annie ebbe una scossa allorché udì che qualcuno batteva alla porta. Balzò dalla poltroncina dove stava ricamando e corse ad aprire. Vide il vecchio notaio Fassi, amico di casa, che da parecchi mesi non si faceva vivo. Sembrava appesantito e molto più corpulento di come lei lo ricordava, tanto più perché indossava un impermeabile nero, troppo largo, che cascava con grosse pieghe, lucido per la pioggia, ruscellante di pioggia. Annie si fece forza e sorrise dicendo: «Oh, che bella sorpresa, caro dottor Fassi!» Al che l'uomo entrò a passi grevi e le porse la massiccia mano per salutarla. Ormai sfiorita, la signorina Motleri, che stava ricamando nel salotto, illuminato dalla luce livida del grande pomeriggio piovoso, si stava ravviando con la mano sinistra una ciocca di capelli grigi che le era scesa sulla fronte, quando ecco udì dei violenti bussi alla porta. Ebbe allora un violento scatto nervoso sulla poltroncina, si alzò d'impeto e si precipitò ad aprire la porta. Si trovò dinanzi un uomo massiccio, che indossava un impermeabile di gomma nera, scaglie, duro, viscido, grondante d'acqua. Lì per lì credette di riconoscere il vecchio dottor Fassi, notaio, amico degli antichi tempi, e sforzando le labbra un sorriso disse: «Oh, che bella sorpresa, che bella sorpresa, ma si accomodi, prego, venga avanti». Al che il visitatore avanzò nell'anticamera con un rimbombo dei passi, quasi fosse un gigante, e le tese la mano larga e muscolosa per salutarla. Nel torpore pomeridiano della casa, i ripetuti colpi alla porta riscossero violentemente la signorina Motleri, intenta a un complicato ricamo. Suo malgrado fece un balzo sulla poltroncina, lasciandosi sfuggire la tovaglia che stava ricamando e che si sciolse a terra, mentre lei ansiosamente si affrettava alla porta. Come ebbe aperto, si trovò dinanzi una sagoma nera, massiccia, lucida, che la guardava fissamente, al che lei disse: ma lei e arretrò. Mentre il visitatore entrava nella piccola anticamera, i suoi passi grevi rimbombando in modo incomprensibile nel vasto edificio condominiale. Fa rapidissima Annie Motleri a raggiungere la porta, ciocche scomposte di capelli grigi piovendole sulla fronte, quando echeggiarono ripetuti i colpi di qualcuno che chiedeva di entrare. Con mano tremante girò la chiave e quindi abbassò la maniglia aprendo la porta. Sul pianerottolo stava una forma viva, massiccia, potente, di colore nero, tutta a scaglie, con due occhietti penetranti e delle specie di viscide antenne che si protendevano verso di lei, brancicando, al che lei gemette: «No, no, la prego!» e si ritraeva spaventata, mentre l'altro avanzava con passi di piombo e l'intero casamento ne rimbombava. Come la signorina Motleri, richiamata da insistenti colpi alla porta, fu corsa ad aprire, si trovò dinanzi un essere nero, ricoperto di una corazza lucida, nera, che la fissava, protendendo verso di lei due zampe nere che terminavano ciascuna in cinque artigli biancastri. Annie istintivamente si ritrasse, cercando però di richiudere il battente, gemette: «No, no, per misericordia di Dio!» Ma l'altro, poggiando con tutta la sua immane massa sul battente, la dischiuse sempre di più, finché riuscì ad aprirsi un varco ed entrare, e il parquet scricchiolava sotto la sua mole gigantesca. «Annie!» mugolava l'intruso. «Annie! verso di lei protendeva i bianchi orribili artigli. Non trovò la forza di invocare aiuto la signorina Nimotleri, allorché richiamata da energiche percosse all'uscio, che istantaneamente l'avevano messa in uno stato di eccitazione difficilmente esprimibile, si precipitò ad aprire e vide un tenebroso, immondo, mastodontico coleottero, scarabeo, ragno, fatto di lucidi lastroni, uno connesso all'altro a formare un mostro possente, che la fissava con due minuscoli occhi fosforescenti e protendeva verso di lei decine e decine di antenne rigide che terminavano in ganci sanguinolenti. «No, no, dottor Fassi!» supplicò retrocedendo e più non poté dire. Allora il bestiale la granfiò con gli artigli orrendi. La giovinetta Nimotleri udì battere alla porta e andò ad aprire. Era il mostro, l'inferno, l'antico rettile dio, il quale la penetrava fino nell'intimo coi suoi occhietti di fosforo e di fuoco. E prima che la facesse in tempo, anche menomamente, a ritrarsi, fece scattare le sue tenaglie di ferro, affondando gli unghioni nel tenero corpicino, nella carne, nelle viscere, nell'animo sensibile e dolente. La conoscete, la signorina Nimotleri? No, altro che 45. Volete scherzare? Certo, vive sola. Ma chi volete ormai che... Ricama nell'appartamento silenzioso. Ma che cosa le prende adesso per fare quel salto sulla poltroncina? Forse che qualcuno ha bussato alla porta? A figurarsi. No, nessuno ha bussato. Nessuno, nessuno. Chi mai potrebbe bussare alla porta? Tuttavia la signorina è corsa con un lancinante batticuore, inciampando nel tappeto, battendo contro lo spigolo del trumeau, ansimando. Ha girato la chiave, ha abbassato la maniglia, ha aperto. Il pianerottolo è vuoto. Le piastrelle del pianerottolo vuote. Con quella luce grigia che viene dal finestrone grigio e non concede perdono. La ringhiera nera è immobile. Immobile la porta dell'appartamento di fronte. Tutto immobile, vuoto, è per sempre perduto. Non c'è nessuno. Il niente del niente del niente. L'antico rimpianto, sì. L'afflizione inguaribile, sì, la maledetta speranza degli anni lontani, sì, l'invisibile mostro, sì, ancora una volta la presa, lentamente affonda i suoi aculei nel solitario cuore.